ben ritrovati ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre Jean-Luc, ospite anche stasera. Questa volta con noi una band modenese che viene a presentarci il suo nuovo disco. A voi le presentazioni. Ciao a tutti, noi siamo i Motorfingers, veniamo da Modena e stasera per i Motorfingers qui ci sono Nox al basso. Ciao a tutti, ciao Jean-Luc. Alex alla batteria. Ciao a tutti. Max e Spezza alle due chitarre. Ciao. Viaggio musicale nel passato con una prima parte dedicata all'hard rock degli anni 70. Abbiamo ascoltato nel brano degli Scorpions, tratto dal disco Taken by Force del 1977 e dal titolo He's a Woman, She's a Man. Storica formazione tedesca con oltre 100 milioni di dischi venduti, che da noi è conosciuta soprattutto per i successi degli anni 80 e che andrebbe rivalutata anche per i dischi degli anni 70. Che ne pensate? Ah, sai, gli Scorpions sono una band molto longeva, come tutte le band longeve ha vissuto un'evoluzione sia in termini di cambi di formazione che in termini di sperimentazione sonora. Certo. Probabilmente negli anni 80 hanno trovato quella maturità compositiva e quel sound peculiare che li ha resi icone dell'hard rock. Ecco che da quel punto, sia per i fan che per la critica, la loro evoluzione, il loro percorso diventa un oggetto affascinante, per cui è anche bello andare a riscoprire i primi successi e i primi dischi. Allora, i Motorfingers sono attivi dal 2008. Come, esatto, vi siete formati e perché questo nome? Allora, questa band nasce da un'idea un po' malsana di me, Max, e l'altro chitarrista, Spezza. Abbiamo deciso di iniziare a provare a fare qualcosa di inedito, di completamente originale, venendo entrambi da esperienze con cover band e robe simili. Di conseguenza abbiamo iniziato a cercare l'altra gente che potesse avere un bel approccio con questo esperimento. E sono arrivati Nox, Alex e Clay. Dopodiché ci siamo messi al lavoro per registrare un primo EP e siamo partiti suonando live subito. Il nome in realtà nasce da più cose. Uno è perché Motorfingers letteralmente significa asticelle del motore, che sono una parte molto importante del classico bicilindrico americano, ma che viene un po' sottovalutata perché di solito si pensa alle testate, ai pistoni, queste cose qua. Certo. E l'altra cosa è che un'altra traduzione in gergo americano è melodia pesante, e noi ci rispecchiamo molto in questa cosa qua, perché ci sono ritmiche, chitarre, robe abbastanza aggressive, però con molta melodia. Proseguiamo con la musica ascoltando gli UFO. Nel 1974 esce il disco Phenomenon, dove debutta il giovane chitarrista tedesco Michael Schenker, e da qui ascoltiamo la canzone Doctor Doctor. fondamentali nell'evoluzione dell'hard rock, gli UFO hanno influenzato moltissimi gruppi heavy metal, tra cui gli Iron Maiden, in virtù del sound terzinato. Che ne dite? Ma sai, è normale che ogni band che nasce mette al centro, al proprio centro, le sue influenze, il suo gusto e ciò che ha ascoltato prima. Il difficile è metabolizzarlo, farlo proprio, per poi creare qualcosa di originale. Se gli UFO hanno ispirato gli Iron Maiden, un applauso agli UFO. Vostre performance, come sono andate e quali le impressioni del pubblico a fine concerto? Allora, guarda, le nostre performance, cioè delle nostre performance possiamo ritenerci soddisfatti, perché alla fine del concerto abbiamo visto volti incuriositi da una roba che non avevano mai sentito e persone molto soddisfatte dei nostri brani, quindi non possiamo che esserne contenti. Questa prima parte finisce con i Motorhead, dal super trio di Lemmy, incide nel 1979, il disco Overkill, che contiene un classico come Damage Case. No time for a damage case.